d'occhio ci sia per critico maldestro. Sono persino stanco di ripetere che sono stanco di ripetere. Avete rotto il cazzo, il vostro hip hop mi fa cagare. Per questo voglio eliminarlo, deluso, non avreste potuto evitarlo. La cultura segue il destino del mondo, H, ci stiamo distruggendo. Stiamo tornando alla Peyron, a Peyron. Stiamo scontando l'esserci voluti staccare dall'origine dell'universo. Tento di spiegarlo, nessuno accetta lo stesso. Ottimismo, ci vuole un po' di ottimismo. Salviamo l'hip hop, salviamo la cultura, di conseguenza salviamo il mondo. Bravo, hai vinto, tanto alla fine poi muori lo stesso. Ti sta lamentando perché non propongo, bensì distruggo. Se qualcuno sta male faccio quello che posso, ma la questione è ben più in alto. I pragmatisti del sabato non fanno altro che sparlare di svago, di alcol. Adesso fammi capire da cosa ti devi svagare, perché ti vuoi divertire se ti ostini ad evitare la discussione su cose serie. Sì, va bene, ho capito, hai scritto un testo sulla difficoltà del vivere, ma in modo sterile mi riesce difficile credere che col tuo stile tu riesca a ragionare, ad approfondire. Si vede bene che hai una fottuta paura di morire, ma è inevitabile che tu ne voglia o non ne voglia parlare. Forse è l'unica cosa normale che io possa fare, morire alla radice del problema, smettila. Il tuo sfoggio di ragioni l'ho sentito in 6 miliardi di gusti diversi. Prendi atto che la morte non è un male, la vita invece sì, paradossale, sono disposto a patire se poi mi lasciano morire. Vita, morte, il ciclo si interrompe, giunge la sintesi di Hegel. Potresti capire, vorresti non capire. Esistenzialismo, sbaglio il congiuntivo, non sono sicuro che esisto. Sono fedele alle rappresentazioni mitologiche come Callisto, insigna principessa guerriera, Porsche Carrera. Chi se ne frega, la massima universale di chi riflette la mattina a sera. Ma stai zitto, chi ti ha mai visto? Vorresti spiegare al sottoscritto l'umiltà dell'uomo nei confronti del tutto, mentre sei tu stesso a fare il bullo. Sei il primo che si sta giustificando, mi stai di fianco, mi stai comandando. Infatti vedi quanto mi stai portando il tuo giudizio. Sto improntando il mio suono non sull'asfalto, non sulla scelta di campo, ma sul liquidismo più blando. Odio il cazzo e non capisco, anzi capisco benissimo, perché la gente si stia ammazzando per uno sport così merdoso, ignobile, commerciale, diseducativo, sessista, violento, nel senso che provoca rivolte di pubblico. Basta con la violenza negli stadi, drogati, laureati, trattati, collegamento a morte. In Giappone vesti bianche, occidente tutto è nero, degenero. Mio figlio si chiamerà Vassili come Kandinsky, mentre guardi cavalli dipinti su quadri rivesti di svegli e dipingi. Prima acquarello astratto, se ti dico pittore ti viene in mente solo Van Gogh e non conosci nemmeno il suo nome. La tua cultura di base è scarsa, secondo te ha senso che io dica che quest'ultima frase è nonsense?